16 question, domanda 16. Aspetta. Meine Brille, bitte. Meine Brille. Ohne Brille kann ich nicht keine essen. Domande. Fragen. Keine Fragen. 16 Fragen, ne? Ja, 15 nur. 15? Die 16 ist... Okay. Buonasera. Sì, me l'ha detto, ho sentito. Dai, sì. Vedi che abbiamo subito risolto. Va bene, dai. Vieni, Alex. Vieni, Alex. Vengi. Vabbè, tieni, c'è quella posizione lì che è quella che domina tutta la situazione. Infatti a volte mi chiudo la porta là in fondo così sento se aprono. Allora, lo dicevo ieri con la Maria Chiara, quando abbiamo aperto quella porta lì, ho quasi litigato con mia figlia che io non volevo aprirla perché lì c'era un muro di cemento, sì. Così, no? Poi ci ho detto invece, meno male che è stato un gran bel lavoro invece. Anche perché entra la luce. Sì, la luce, quando... ma poi anche esteticamente, quando di là vedi qua, nel si pomeriggio apre... c'è il sole che va dentro. Sì, questo mi ha detto, ok, è andata bene. è andata bene, sì. Però, scusami. No, Cristina. Tante Cristina, volte facevo di testa mia, ma qualche volta... Davvero, sono più di là che di qua. ma detto così, guarda. Detto così pare brutto però. Beh sì, infatti. è morto anche Francesco Nuti, eh? Sì, hai visto? È morto per Brusca, un attore, era sempre era depresso, ma era malato adesso. Era malato di Parkinson, Parkinson. Ma aveva sì, però era sempre 67 stato... anni, poraccio. Comunque, toscano di meno. Allora, domande. Ci vorresti raccontare qualcosa della storia di dove c'è il vigneto? Qualcosa di chi quello era, che ti viene esempio? In mente. Mamma, poi rispondi tu. Papà risponde per sé. Se no, sei un genitore. Cristina è la forza dell'abitudine. Lo so, però. Quello che ti viene in mente, Azucena chiede la storia, no? La storia di quell'appezzamento lì di terreno, quelle di terreno tre fasce. Era, ce l'aveva già mio nonno, ma non era di proprietà. Era di proprietà di un signore di Genova, che abitava lì. Però loro lo coltivavano, l'hanno coltivato per tantissimi anni. Che cosa c'era coltivato quell'epoca che c'era tuo nonno? Albicocche, c'erano due fascioni lunghi, tutte piante di albicocche enormi, c'erano delle piante che avevano dei gambi grossi così. E però le coltivavano per venderle, sì, commerciarle. Poi c'era anche qualche pianta di pesca, ma poco. E nella fascia lì di mezzo dove c'è l'orto? Facciamo anche adesso un po' di orto, e lì faceva già l'orto, metteva i pomodori. Ok. Soprattutto pomodori, e soprattutto quelli che vengono poi, li seminavano fine luglio, agosto, per la raccolta veniva fatta a novembre, proprio prima del freddo, che erano ancora mezzi verdi, però li mettevano poi in casa, nel solaio della stalla e maturavano lì bene, ci mettevano un po' di fieno sotto, ci voleva la paglia, ma la paglia non c'era, perché qua paglia poco, perché non c'era la semina del grano in Liguria. Non si fa. Non ci sono i campi da grano. E il tuo legame lì, a livello appunto di storia che ti viene di raccontare, quando comincia? Da sempre, quando ero bambino, piccolissimo, che andavo là. Con tuo nonno? Aiutare un po' mio nonno, a volte mi lasciava lì a bagnare le albicocche, che avevo piccolissimo, via. però giravo l'acqua io, quando c'era l'irrigazione non avveniva tramite le gomme, le canne che ci sono adesso, ma veniva tramite il solco. Si creava un solco. Però c'era già, diciamo, un approvvigionamento, arrivava già dal consorzio irriguo, no, o c'era qualcosa di diverso? Veniva da... Era una proprietà privata che portavano l'acqua da Castagnabanca. Ma tubi c'erano? C'è ancora adesso, anche viene. Erano tre proprietari a Ranzi. E poi loro vendevano l'acqua. Ecco, erano avanti nel business con l'acqua. Sì, sì. Veniva giù, passava il tubo, passa proprio lì nella strada. Quando arrivi lì sotto per andare da mia sorella, sì? Lo vedi ancora, quel tubo arrugginito lì che c'è, vecchio, quello lì è il vecchio tubo che veniva da Castagnabanca. L'avevano fatto negli anni 30 con una sovvenzione statale, me lo ricordo che si raccontava, via. L'avevano creato lei, loro hanno portato giù stacco questi tre di Ranzi. Di Ranzi, che però aveva una proprietà in Castagnabanca. No, la sua era... La sua non sorgente. Lo so di chi era la sua, ma era una sorgente in un ritano. Io lo so dove era. E quando andavamo su delle volte passavamo e si vedeva lì c'era uno sportello di ferro così fuori e prendeva l'acqua che nasceva proprio da lì sotto. Ok. E che cosa significa Ranzi per te? Le domande le ha scritte Asu, eh? Beh, cosa significa? Significa adesso più poco, perché però c'è sempre il ricordo della mia infanzia. Vedi, solo parlando è mica vuoto. Beh, ci sei nato lì, no? Sono nato e sono cresciuto fino a... Fino a quando ho incontrato la mamma. Ho incontrato questa signora che mi ha portato via. Mi ha sradicato da Ranzi. Con piacere, eh? Con piacere ha detto? Sì, l'ha detto. Invece per te Ranzi che cosa significa? Beh, io Ranzi l'ho conosciuto, sono andata a Ranzi quando ho conosciuto papà. Se lui è così, un po' anch'io sento questa, come posso dire, questo attaccamento, perché ho conosciuto lui e andavamo a mangiare dalla nonna Lina, prima ancora... Il coniglio. Prima di sposarsi andavo già, sì, quando ci siamo sposati, andavamo con voi, forse non so se... Ti ricorderai, sì, che mi ti ricorderai. Certo così. Che mi ricordo. Sì, ho dei bei ricordi, perché ero giovane. Era domenica, andavamo a mangiare lassù. Andavamo quasi sempre la domenica a mangiare alla nonna. Alla mezzogiorno. E alla sera a casa. Dalla nonna Battistina, esatto, dalla nonna Giulia. Sì, quasi sì. Sempre così. Quindi la domenica eravate ospiti dei quasi rispettivi genitori quasi suoceri. Sempre. Sì, sì, sì. Fino a... E però sul terreno, che ritorniamo, ecco, un attimo, sì. Poi, morto mio nonno nel 51, è rimasta mia mamma, perché io non l'ho coltivato, perché... Beh, 51 eri anche giovane, ci avevi 17 anni. Ero giovane, ma però avevo già iniziato l'altro sì, lavoro. Sì, sì, sì, il tuo lavoro. L'ho fatto certo. Nella vita, via. E lo coltivava un po' mia mamma, ma pochetto, via. E ci erano rimaste di queste piante di albicocco fino a tanto, erano durate tantissimi anni. E poi quando era stato un po' abbandonato da mia mamma, che non lo coltivava più, allora abbiamo deciso di comprarlo sul terreno. Siamo andati a Genova, ti ricordi? Da questo signore. Da proprietario? Di un po' come si chiamava. Sparaggio. Sparaggio, ah, è vero. Un nome genovese, eh? Nome. Genovese. Era un soprannome. Ma non lo so, sì. Penso che fosse abbastanza, sì. Un soprannome. Proprio come fosse il suo. Era un professore, no? Sì, professore di scuola, insegnava a scuola al liceo, a Genova. E l'abbiamo comprato e abbiamo fatto il vigneto. Subito. Che anni erano quelli? E l'abbiamo comprato nel 76, 75, 76. Fatto il primo vigneto, che non è questo. No, sì, il primo, poi questo l'avevamo fatto già con suo fratello. E mio papà, non è giusto? Sì, non abbiamo più perso. Che erano, diciamo, più contadini di te. Sì, sì. Perché loro erano proprio contadini. Più. No, nel senso... Io ogni tanto intervengo, ma non dovrei. No, vabbè. Io non ho, io contadino così così, perché ho vissuto a Ranzi, e siccome in quegli anni Ranzi erano tutti contadini. C'era qualcuno che lavorava all'ospedale, Santa Corona, e gli altri erano contadini. Sì, perché Santa Corona contadini. C'era allora, negli anni 20. Crescendo lì, ho imparato qualcosa perché vedevo. Osservavi. E mi piaceva anche, infatti osservavo, andavo anche a aiutare a volte. Perché a quei tempi, a 13-14 anni, magari d'estate andavo da Bergalo a aiutare. Mia mamma andava a aiutare a incestare le pesche. E io andavo con uno di loro a bagnarle le pesche, a fare quel lavoro là che c'era, te l'ho detto già. Il solco, poi ogni pianta. C'era, bisognava fare una piccola deviazione, togliere con la zappa, una zappata di terra qua, si metteva lì, si chiudeva l'acqua che andava avanti e l'acqua si deviava dentro, così, capito? Io me e lo così ricordo. Via, tutti in fila, che c'erano le fasce lunghe. Come sono un lavoro ancora. Molto semplice. Semplice e anche leggero. Che stavi lì a aspettare che si riempisse il solco. Gli affari, come hai fatto anche te. Il dialetto Ugumbo. Come hai fatto te la sua Ranzi anche, così, per i rotondi tutto intorno. Quando era pieno, chiudevi lì e aprivi l'altro prima, così. I nostri vecchi contadini erano abbastanza intelligenti, che facevano i terrassi, chiamiamoli. In pendenza. Muri di pietra. Avevano già una pendenza giusta, che te quando per poter irrigare. L'acqua andava senza portar via. Ma piano piano piano piano avanzava, ma che facevano tutta la fascia. Tutta la fascia, bagnavano così. Qual è il tuo posto preferito in quelle tre fasce? Eh? Di quelle tre fasce qual è il posto per te preferito? Ma è sempre lì all'inizio della seconda fascia, quella di mezzo. Lì dove c'è la prugna. Dove c'è la prugna e che abbiamo messo quel tavolo con dove c'è quel concime. Difatti, te l'ho detto, avevo un po' di idea di fare una tettoia così, tipo, e farla un po' lì o un po' più avanti. E fare un barbecue. Andare a fare qualche grigliata. Te invece il tuo posto preferito? Lassù in quelle tre fasce qual è? Te sei terribile come lei, però. Eh? Te sei terribile come la mamma. Siamo abituati. Sì, sembra. Ma il mio posto preferito, comunque, mi piace andare dove c'è l'orto. Dove c'è l'orto, la fascia di mezzo. Perché se ci sono, sì. Perché se ci sono, mi piace andare a vedere quello che c'è, che è stato seminato, curato, e vedere com'è. Quando è il momento che si può prendere questo o quello, quello lo faccio volentieri, mi piace. Sì, è la soddisfazione. Qualche volta anch'io vado a innaffiare. La soddisfazione di staccare un pomodoro o una pesca, quando insomma è bello, quello sì, quando sì. Ce l'hai bella, veramente ti tocca. Adesso ti fa piacere, adesso bello. Veramente. Come adesso quando tiro sulle patate, che tiri su. Dai la zappata, magari ne vengono fuori 4 o 5 così. È una cosa che ti tocca, non so. Quando le prendi e le metti nel cestino, è bello. Per me diciamo è una che cosa non sembra, bellissima. Ma siamo dei sentimentali. Sì, tanto. Vi capisco molto. Anch'io mi facevo l'orto da noi. Esattamente la stessa cosa quando metti con la zappetta sì, e la patata. Oppure che vedi che c'hai quella. Quei bei pomodori così che o una pesca o il profumo, e quando facciamo la vendemmia poi è il massimo. Allora siamo tutti lassù, tutta la famiglia, nipoti e tutti quanti, allora è un giorno di festa praticamente, anche se c'è da lavorare, delle volte ci facciamo delle sudate che non finiscono più. Infatti poi Asu chiede, raccogliere aranzi ti dà soddisfazione o è più un compito che devi svolgere? Ma in realtà avete già risposto. Sì, sì, sì. No, soddisfazione. È soddisfazione. No, sono quelle cose che a farle solo, se devi farle, non le fai. Rinuncerei. Avrei rinunciato già 30 anni fa, quando ho cominciato a fare un po'. Un po' l'orto, via. Prima, quando avevamo l'altra attività, purtroppo erano un po'. C'era la vigna, ma si andava proprio a fare lo stretto necessario per non perdere il raccolto, via, e basta. Non... Quando è che è un po' cambiata? È cambiata un po' da... Beh, un po'. Da quando c'è Nicolò? Sì. Si occupa un po'. Sì, da quando andiamo con Nicolò, che è anche una compagnia e soprattutto un aiuto. Perché io e poi bisogna anche dire un'altra cosa, perché Nicolò è bravo anche nel curare e sì, far sì. curare. Sì, sì, sì, sì, Nicolò. Lui col suo telefonino legge, impara. Beh, c'è un insieme, no? Di, sì, sì, sì. C'è una tradizione che è la tua, si è sempre fatto sì. così, Nicolò invece indaga, studia, approfondisce, allora qualche modifica si fa, sì, no? Sì, sì, sì, sì. Perché non è detto che si è sempre fatto così, oggi possa essere ancora la scelta più giusta, no? Quindi mettono insieme le loro conoscenze, almeno quello che io anche vedo perché... è quello. Ci sono adesso altri tipi di parassiti, di cose che ti colpiscono, o la vendemmia o anche le verdure, tutto qua, che ai nostri tempi, quando ero un ragazzo io, non se ne parlava neanche. Adesso c'è sta mosca della pesca che la punge il frutto magari è bello grosso così. Basta la puntura della mosca che è andato, perché il 448 te la vedi bella fuori, ma come la prendi dentro è tutta marcia. Quando ero ragazzo io, dopo la guerra lì non esisteva, c'erano delle piantagioni di pesche, c'erano sì, da vedere, c'era questo terreno qua da laggiù in fondo, andare fin lassù e poi dalla casa lì andare fino alla strada che va a Ranzi, era tutta una piantagione, pesche, albicocche, un frutteto, ecco, in poche parole. Ne raccoglievano quintali e quintali, caricavano i vagoni della ferrovia per mandarla a Milano, e non c'era una pesca Baccata. Che marciva, che le raccoglievano. C'era cose così bellissime, anche loro, anche la mamma loro avevano. Noi ci avevamo l'oano, io ne facevano tante pesche, sì, tantissime. Qual è il processo che segui per la coltivazione, dalla semina alla raccolta? Quali sono le fasi da quando decidi di mettere giù qualcosa? Proprio azioni concrete. Azioni, c'è la semina, vabbè. Ma prima della, sì. Prima della semina bisogna preparare il terreno. Adesso sì, una volta si usava la zappa a mano, adesso si usano le motozappe. Motore a scoppio, no? C'ha? Sì, sì. Motozappa con motore a scoppio che si passa una, due, tre volte. Invece una volta era tutto, veniva fatto a mano. Si creava il suo solco, poi man mano si zappava, si girava la terra, si buttava l'erba sotto, che faceva anche da concime, Invece adesso si dà, bisogna usare un po' di concime, possibilmente bisognerebbe usare concimi naturali, ma purtroppo sempre non si può, qualche volta si usa anche concimi minerali, quelli che sono così. Poi metti giù, semina? Poi si semina, bisogna, siccome le verdure, tipo il pomodoro, queste qua vengono seminate in primavera, e se è bagnata basta bagnare poco, se non è bagnata bisogna bagnare molto, ogni due giorni bisogna dare acqua, innaffiare, perché quando si semina in modo che si crea il solco, mette la piantina dentro, lo sai, no? Mette la piantina dentro e poi con la canna dell'acqua adesso, dalla testa del solco, si mette lì e si aspetta che l'acqua arrivi in fondo e bagna tutte le piantine. Poi la piantina cresce, se è il pomodoro per esempio bisogna starci dietro a curarlo, perché bisogna ogni 4-5 giorni che cresce legarla, prima viene messo con, si pianta la canna di fianco alla piantina, poi si lega lì man mano, si accompagna, si guida lungo la canna con... E poi te invece cosa fai? Vai a fare i pomodori? Togliere, adesso sì. La dico in dialetto, la parola. Togliere i garzeux. Sì. Non si sarebbe perché il selvatico. Fra una foglia e la pianta che sale, nasce sempre in garzeux. Che bisogna toglierlo perché la pianta non andrebbe avanti bene. No, sì, perché se non si tolgono, quello che sta dicendo lei, queste punte, la pianta diventa un cespuglio e si mangia il frutto. La pianta, la radice che alimenta la pianta, ma non riesce a alimentare il frutto, perché questi, noi li chiamiamo, sono selvatico, noi chiamiamo, e tirano, loro assorbono tutto l'alimento che arriva dal terreno e i frutti non vengono più. Invece bisogna sempre, io l'altro ieri sono andato, l'ho levati tutti bene, l'ho legate alla canna, adesso sono lassù belle dritte e hanno già i fruttini belli grossi così. Cominciano via la prima pigna, diciamo, il primo che fa, perché lungo la pianta comincia a fare un grappolino di fiori lì, poi dopo 30 centimetri ne fa un altro, poi un altro. In sequenza. Ne fanno anche 4-5 a volte, fino alla punta. Poi quando si lasciano alla fine ne fanno qualcuno da su alto, perché quelli sotto sono già stati raccolti. Cosa decidi di piantare? E cosa decidi di piantare? Quando, adesso? In generale, nell'orto. Quali sono? Nell'orto qualche anno fa piantavamo un po' di più, adesso un po' di meno. Però normalmente ho pomodori, un po' di peperoni, due melanzane, poi le bietole, le cipolle, fagiolini, che non abbiamo ancora messi. Che andavo all'agricola per comprare anche una scatola di fagiolini per metterli domani. Va bene. Ci andrò domani mattina. Tu non vuoi che metta i fagiolini? No, invece ci ho detto di prenderli e metterli, perché sì, invece li mettiamo. E ha detto ce ne sarà nella scatola un po', e beh, invece di farne un solco ne faremo due. Ah, ecco. Tanto per, vedi, troppi. Un po' più distanziati. Vabbè. Utilizzi fertilizzanti o prodotti chimici nell'orto vigneto? Ma nel vigneto è un prodotto mezzo chimico, deriva dallo stalattico, non so io adesso come di preciso come venga prodotto, ma viene prodotto da dagli allevamenti del bestiame che raccolgono tutta questa roba, poi viene lavorato. Io do quasi tutto stalattico, poi si dà anche un chimico in base, bisogna, per cucinare giusto bisogna fare analizzare la terra, vedere se è scarsa di azoto o di potassio o di altre cose, e allora si compra la cosa giusta. Se è un terreno scarso di azoto bisogna comprare il concime a base di azoto, oppure se invece è scarso di potassio, che sono i due elementi praticamente principali, allora bisogna prendere quello, il concime che è un po' più carico di potassio, più scarso di azoto. E com'è che ti prendi cura del terreno vero e proprio? Del terreno vero e proprio, come ti prendi cura? Praticamente quello che ha detto. Questo è il processo qua di far analizzare se manca il potassio. Quando, sì, bisognerebbe farlo, che noi non lo facciamo. Andiamo a occhio, oramai. L'ideale sarebbe dare il letame degli animali, dei cavalli, sarebbe il massimo. Noi abbiamo i cavalli, quindi con papà io prendo cariola e cariola di letame e metto nell'orto. Infatti l'orto è abbastanza equilibrato. Bisognerebbe trovare, ma si trova, volendo proprio, solo che lì dove c'ho il terreno io è un po' scomodo da portare là. Perché se fosse da portarlo qua, vado lassù da Andrea con un motocarro che ce l'ha. Andrea è un cugino che ci dà una mano e che lui vive a Bardineto, ci siamo passati nel bosco e ha gli animali. Ha 8 asini. Ah, e ne fanno un mucchio, ce l'ha un mucchio lassù, ma solo come fai a darle prendere? È anche lontano. E poi, come ho detto, no, forse che lo porto qua, che me lo scaricano nel terreno, allora lo andrei, ma giusterebbe giù. Là ci arrivi solo con l'AP50. Lassù invece dovrei scaricarlo lì nelle case prima delle case. Che poi ci e poi riempirlo nel motocarro, poi portarlo là all'inizio del terreno e poi con la cariola portarlo. Allora si fa, prendiamo. E poi non si potrebbe neanche scaricare, No, in terra non può bere. No, per quello vai. Deve mettere un telone. Metti un nylon sotto. Quando hai finito, togli il telone. Un altro lo copri, non puoi neanche trasportarlo. Bisogna coprirlo bene col telone. Quindi, quali sono le verdure e i frutti che stiamo attualmente coltivando? E adesso la vigna, lo sai. Un po' di peperone, un po' di mietole, cipolle, zucche. Zucche. Quelle là. Che ne fanno? Ce l'hanno già, hai visto? Ce l'hanno già visto parecchio. Sì, sì, ma la zucca va, viaggia veloce. Le trombette. Le trombette. Che non è zucca. Ce l'abbiamo zucchine. Qua. Due zucchine. Abbiamo fatto indigestione di carciofi quest'anno. Sì. Sedano. E quest'anno poi a agosto bisogna trovare la forza di andare a metterli. Metterli prima? Sì, un po' prima. Noi li mettiamo. Almeno ci danno quei giusti anche. Le piantine, non quelli romani, ma proprio no. Mettiamo i carciofi lì. Poi si fa come si può. Qual è la verdura o frutto preferito da coltivare? Che abbiamo già raccolto e coltivato lì nell'orto? Tra i preferiti sono i pomodori, perché sono i più usati anche, ma poi un po' tutto, tutto quello che c'è, cicchina, anche la frutta, la ciliegia per esempio sarebbe bello, e quest'anno un po' l'ha fatta. Quest'anno abbiamo preso, il primo anno in 10 anni che abbiamo preso le ciliegie. Ciliegie è soddisfazione a vederle, solo la pianta quando sono mature, e quando è fiorita poi non ne parliamo, perché la pianta di ciliegio fiorita uno spettacolo banale. Qual è la tua frutta o verdura preferita che c'è la sua ranzio nell'orto in generale? diciamo invernale, estiva, primavera, non è che devo ripetere tutto quello che forse abbiamo, perché per me allora i carciofi, senza ombra di dubbio, le trombette fatte col pomodoro, anche perché pensi al mangiare. Lei pensa a mangiare. Eh beh, certo. Eh beh, allora, io mi avete detto, certo, ripetimi la domanda. Qual è la tua verdura o frutto preferito che hai raccolto nell'orto? L'ho raccolto perché, allora, perché questi frutti, queste piante ci sono da raccogliere? Perché è quello che noi amiamo, che è quello che noi vogliamo. E allora, carciofi, le trombette, le zucchine, le bietole che si fa la torta pasqualina, pure le frittate che sarebbero anche da fare, non la faccio mai, e poi cosa c'è? Un po' i fagiolini che dobbiamo ancora seminare quest'anno, perché a me piacciono, e vogliamo seminare fagiolini pelandroni. Sì, quelli un po' più grossi, piatti. No, sono piatti, non sono, i fagiolini sono rotondi, diciamo, no? No, a te piacciono quelli piatti. Un po' come gli spaghetti, invece a me piacciono quelli piatti. Un po' più grossi, ma piatti. Sì. Le patate, l'ho detto? No, va bene. Vorrei fare sempre patate fritte perché mi piacciono da morire. E qual è la stagione preferita nell'orto, considerando fino adesso? Come? La primavera. Primavera? Sì. È bello perché poi anche il dintorno che hai è bello tutto. Invece di inverno, sai, le piante sono spoglie, sono... L'autunno è bello anche, perché l'autunno... Bello l'autunno perché c'è l'uva. C'è l'uva e poi c'è il cambio di colori, perché l'autunno... Ti giri in giro, quello che era tutto verde, come diventa giallo, diventa rosso, diventa bello. Anche lì, anche il vigneto. Quando siamo là alla fine di ottobre, che vengono tutte le foglie, sono un'infinità di colori, perché hanno quelle striature rosse, gialle e tutto. È bellissimo. Quando si va dentro, magari per lavorare non ci fai neanche caso, però se ti fermi un attimo a vedere, lo vedi. Via. Quella è tutta natura, eh? Ed sì, è bellissimo. Sì. Non è che vai là col pennello, fare le foto. Ti senti connesso all'orto, al vigneto? Quando sei lì, come ti senti? Nei confronti, sì, di quello che c'è? Sì, sì. Della ti senti, terra, ti immedesimi, ti come si dice, sei preso da quello. Difatti io, che mi piace, delle volte sono lassù solo, mi metto un po' lì nella mia sedia e ci sto divinamente. A guardare, a far passare quei 10 minuti, neanche 5-10 minuti. Mi piace anche la solitudine lì da solo, i miei pensieri. Stessa cosa. È una volpe. Cosa sono? Sulla dito? Che sei una volpe. Beh, a me piace anche qui, non solo la campagna, mi piace ogni tanto, soprattutto mi piace andarmi a vedere, mi piace anche qui, soprattutto qui mi piace andare a vedere quel piccolo orto che abbiamo lì. Infatti ci ho detto a papà poco fa, adesso devo andare un pochino a vedere, e anche quando andiamo lassù mi piace vedere questi frutti che maturano, oppure i prodotti che hai seminato che crescono, e mi piace andare a vederli. Sì. E ogni tanto mi una va di andare. Soddisfazione perché è qualcosa che te lo senti che l'hai creato, anche se non sei te che l'hai creato, ma è madre natura che te lo manda, ma però senti che hai partecipato, come si dice? Ecco, hai partecipato insieme alla natura, alla creazione di questi prodotti. Adesso questo lo chiedo prima alla mamma. Cosa significa per te quando c'hai le mani nella terra? Sì, mi piace. Se posso le mani non me le sporco. Per quello che l'ho chiesto prima a te. Perché mi metto anche i guanti. Una volta non lo facevo, però adesso sì. Al contrario di me. Io non voglio i guanti, io ci ignaspo dentro la terra perché mi fa piacere un po' tutto, anche quando faccio lavoretti di non so, do la tinta a sto boriciolo lì, non me li metto i guanti, li metto quasi mai. Ma nella terra, infatti, poi devi tenere le unghie sempre, andare spesso dalla Debora. Alla mamma stasera vado un po' dalla Debora, se no sai, ti viene tutto pieno di terra nera. Specialmente il verde dei pomodori. Dei pomodori, ma anche quando raspi così. La terra. La terra nel io quando metto anche le piantine dei fiori lì, nei giardini così, non uso mai i guanti, mai. Ma io la terra la... Ti piace? Sì. Prima la zappetto bene con la zappetta, poi con le mani faccio il buco e ci metto il vaso. Metto il vaso col pane che già. E cosa significa avere appunto quella terra tra le mani, il terreno, quello spazio lì dove c'è il vigneto, dove c'è l'orto, dove ci sono le piante? Beh, è una domanda un po' che non so tanto rispondere. Cosa significa sentirti attratto da fare quello? Perché la terra ti attira proprio da toccarla, da lavorarla, da muoverla. Lo faresti? Cioè, io adesso dico faresti perché mi stanno un po' mancando le forze per farlo, altrimenti lo farei volentieri, anche andare con la zappetta a raspare anche questo piccolo orticello che abbiamo qua. Una volta me lo raspavo tutto, adesso non ce la faccio più. Adesso sono passati troppi giorni. Con calma. Siamo arrivati alla fine. Forse la domanda che hai fatto tu, cosa ti senti per la terra così, forse lei voleva una risposta un po' diversa. No, lei non vuole, lei non sa, lei fa una domanda, le risposte... Ho capito, però vorrebbe, forse avrebbe voluto sentire qualcosa di più, non lo so. Ma l'artista e la poetessa è lei, raccoglie le storie e poi le sviluppa. Per lei, certo. È naturale. Capisce un po' l'italiano? Un po' sì. Un poco. Però molte parole sono difficili. Sì. Però anche la mimica, sì, hai visto? Sì. E quella dice tanto, no? Però poi vabbè, lo guardiamo insieme, no? Se vuoi. We listen together, the answer, and we speak. Thank you. Grazie mille. Prego. Vabbè, ma raccontato due, e ce ne sarebbe da raccontare, ti metti lì, nella nostra vita. Per fortuna è lunga. Fino a oggi ci siamo arrivati. E allora è lunga e abbiamo il nostro inizio di vita che era completamente diverso da quello che è adesso. C'è stato un cambiamento enorme, perché noi veniamo dall'anteguerra mondiale e ci siamo visti già abbastanza bene la guerra, abbiamo vissuto i momenti brutti e poi il primo dopoguerra che è stato abbastanza duro, però c'era modo di poter sviluppare se uno aveva delle idee, perché c'era spazio per il lavoro, per tutto, via. Bisognava buttarsi dentro e lavorare a testa bassa per riuscire a fare qualcosa. Via. Però c'erano cosa c'è di bello che abbiamo avuto gli anni che c'erano le possibilità. Adesso forse ce ne sono un po' meno. Ci sono sempre, io dico, però un po' meno di allora forse. Grazie. Mercoledì Asu torna in Germania. Cioè dopodomani? La notte. Sì. A Monaco, eh? Sì. München. Monaco di Baviera. Monaco. Ma lei dice è una bella città, ci sta sì. Volentieri. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Cioè ti trovi bene, ecco. Bene. Sì, perché vivere in un posto, se uno non ci sta volentieri, trova magari difficoltà nelle persone, così, certo che... È un poco difficile, però per la lingua. Come? Per il tedesco, per la lingua tedesca. Ah, ecco, perché il tedesco non lo sai? Sì. Però no, più o meno. Così. Vabbè, dai. Beh, perché prevalentemente do you speak English? Spanish. Spanish? In German? No. No, spagnolo. Spagnolo? No, spagnolo è in casa. Sì, con Miguel. Con il suo compagno, sì. Che è spagnolo. Invece lei è messicana, però sì. Parlano spagnolo tra di loro. E il suo compagno dov'è? È tedesco? No, spagnolo. Il compagno è spagnolo, lei è messicana, sì. Vivono tutte e due in Germania. Ah, ecco. E in casa parlano spagnolo. Vabbè, sì. Sì. Sì. Cioè, la vostra lingua di tutte e due. Sì. Poi al lavoro? Al lavoro, inglesi e tedesco. Tedesco e inglese. Sì, però solo un poco, non molto. E il tedesco è... Sì, abbastanza. Ma se senti parlare tedesco dicono che è molto più difficile l'italiano. Ma quello è un limite dei tedeschi. Sì. Ma è così. Era una battuta. Però per assurdo per me è più facile il tedesco che l'inglese. Perché sì. L'inglese sono... Simple. Eh? È molto simple. Ah, io trovo più semplice il tedesco perché come costruzione della frase è più simile all'italiano. Invece l'inglese è tutto rimescolato e ci sono tante frasi fatte, quindi bisogna avere buona memoria, che io non ho. Almeno, sì. Questa è la mia sensazione. Probabilmente se non avessero sempre tradotto la televisione con tutta la quantità di roba in inglese che si vede in televisione, lo sapremmo tutti molto bene. Infatti gli olandesi lo prendono quasi gratis l'inglese semplicemente perché non traducono le serie televisive oppure... Ecco, quindi le seguono direttamente in inglese. Lo vedi con i sottotitoli e allora siccome i bambini i sottotitoli li leggono solo dopo una certa età, quando arrivano a 6 anni già sanno l'inglese. Mia figlia già sapeva l'inglese, 6-7 anni insomma. Vabbè, lo parlavamo anche a casa noi parlavamo inglese. Eh sì, beh, perché nel vostro caso tua moglie parla olandese, tu italiano e tra di voi inglese, quindi sua figlia è cresciuta con tre lingue. Arriva un cuginetto dall'America, lei era piccola e io la sento, dico, ma questa parla inglese? Dico, mia figlia, ma caspiterina, ma parla inglese meglio di me. Così sta. Perché... Ma in Olanda l'inglese credo che sia una lingua portata di tutti proprio. Sì. Poi il vocabolario viene dell'olandese, è molto vicino a quello tedesco, ma la costruzione delle frasi è molto vicina all'inglese. E anche la pronuncia è diversa, è particolare. La pronuncia non è come, né come il tedesco, è né come l'inglese, infatti. C'hanno 18 questo... vocali diverse. Poi loro vogliono parlare l'olandese. No, l'inglese. Tedesco. No, l'inglese tedesco. Mica tanto volentieri. L'olandese parla qualsiasi lingua, può fare i soldi. cioè se ti può chiedere i soldi ti parla in qualsiasi lingua, anche il cinese, non c'è problema. No, ma non vogliono. Infatti quando noi abbiamo potuto capire con la nostra esperienza, certo. Adesso per esempio abbiamo 2 appartamenti occupati da olandesi, quello di uno questo e no un altro è nato là. Però io che parlo il dialetto italiano, il dialetto olandese, non parlo altro, però se dico una parola in inglese, in tedesco all'olandese, non è che loro l'accettino tanto. Ma volentieri. Quello è perché è come noi con i francesi, signore. Siccome gli italiani e i francesi si assomigliano tanto, non si possono vedere, e siccome i tedeschi e gli olandesi si ligure, assomigliano poi tanto, il nostro dialetto ha tante vedere, sì. Il nostro dialetto ha tante parole francesi, Vero. Siamo... Sì. Genovese c'ha il portoghese. Per questione di di navigazioni. Sì, Colombo. La Liguria è specialmente il ponente, tante parole sono francesi, e beh, la vicinanza con la Francia. Assomigliano almeno al francese. E allora se ne torna in Germania, a Azucena. Poverina. Poverina. Sì. Ma lei andrà volentieri, Come? Are you happy to come back home? Yes, you yes might and be. No. Sì e no. Sì e no. Così, così. Così, così. No, because... come può essere? You can say it in English, I'll translate. Yeah, because Italy is so wonderful and everything grows and Germany is a bit dead. Dice che le piace il fatto che qui in Italia vede tutto che cresce, mentre invece in Germania è tutto un po' mortacciolo. Nella grande città tedesca, insomma, è tutto un po'. Il quindi, clima. Con il clima, clima è ben differente. L'Italia piove dei giorni. Quando è arrivata mi diceva che è piovuto non so quanti giorni. Rain. Un mese. Di pioggia. Pioggia. Sì, quest'anno è strano. Quest'anno è un po' strano giù in pianura, la nostra temperatura è tutto strano in pianura padana. Passando con il treno, sono stato a Torino, c'è tantissimo grano abbattuto, tanto grazie al tempo che c'è stato, alle piogge, così ha rovinato grano, segale, tutto giù, un disastro. Vabbè, pazienza, così col tempo non si può discutere, fa come vuole. E noi ne subiamo le conseguenze. Invece di mangiare pasta, mangeremo qualche altra cosa. Mangeremo invece? Invece di mangiare la pasta, visto che non c'è il grano, mangeremo qualcos'altro. Mettiamo delle patate, mia. Le patate a me piacciono poi. Le nostre specialmente. Poi facciamo quelle... fritte. Che ci fritte, può. Patate fritte. Ieri lo fate con le uova. Ah sì? Buone, molto buone. Le fa fritte? No, è poi, quello che... poi le mette in padella e ci faccio anch'io. Fa l'uovo strapazzato e nella friggitrice fa le patate fritte, poi le tira su e in padella patate e l'uovo strapazzato che appena si rapprende. Sono buone, molto buone, perché sono buone le patate, come tortiglia spagnola. Una tortiglia. Io però la tortilla la faccio con la patata lessa. Patata lessa? Come? La tortiglia io la faccio con la patata lessa. Ah, vabbè, tortiglia è un mangiare spagnolo. Sì. Io non lo conosco. Neanche io la faccio così a naso. Faccio la patata lessa non troppo cotta, la taglio a fettine. Sì. Poi la metto nella padella, quella la padella buona che non attacca, quella l'antiaderente. Che funziona soltanto con le patate perché non. E vabbè, con l'olio, un po' di cipolla, sale eccetera. E poi la copro, quando si è rosolata un po' aggiungo l'uovo e rimane, e si chiama tortilla. credo che sì, no, è tortilla di Federico. Tortilla di Federico. Il spagnolo lì dirà anche. No, Federico non è spagnolo. Però se io hago una tortilla, tampoco è spagnolo. Sì, no, tampoco. Sì, no, es mexicana, entonces. Tortilla messicana, come si fa? Sì. Come no, no tenemos. Come l'omelette. Come l'omelette? Francese. Veloce. Sì, cioè, loro in Messico la tortilla la fanno come la frittata, quindi veloce. Ma no, non hai nada che è veloce in Mexico? Nothing quickly. Is fast in Mexico. Tacos. Los tacos son i fast. Las quesadillas. Quesadillas? We have the tortilla from maize. But the white maize, sì. It's not the dolce. Allora, il mais bianco, sì, me l'hai spiegato. La con il mais bianco fanno una specie di pane. Molto molto fino. Then you put a bit like a cheese, similar to mozzarella, but poi we call it Oaxaca. Mettono un formaggio simile alla mozzarella che chiamano Oaxaca. Un formaggio che trovano a casa loro, padella. Però. Sì, sì, sì, è un formaggio messicano. Sì, sì, poi sì, la fanno in padella così. Sì, sì, sì. È una tortilla bacuacheca. Deliziosa. Deliziosa. Sì, è buono. Sì, è molto buono. Molto. No, ma la cucina messicana è molto buona. Un poco caotica, però sì. Un po' caotica? Sì, muchos ingredienti. Poi molto in Messico tanti fagioli, no? Fagioli también, sì. Però perché? Non dolce. Non dolce? No, come più salato. Sì, salato, come salato. Va bene, dai. Sì. Lì in Messico hanno inventato la combinazione tra la zucca, il mais e i fagioli. La zucca fa ha bisogno dell'acqua e della buca, diciamo. Il mais fa da canna, così la zucca poi sale un po' sulla canna, e il fagiolo si arrampica sul mais. E sono tre piante che si aiutano a vicenda, per cui hanno bisogno di poca acqua, molta meno acqua. E quando gli spagnoli andarono in Messico scoprirono che i messicani, quella era la base. E infatti facevano la tortilla di mais con i fagioli dentro. Questo è famoso. Io non l'ho mai fatto. Non so che proviamo a fare una zucca, un mais e un fagiolo tutti insieme, vedere cosa viene fuori. Cosa viene fuori? Ma viene perché il mais. No, vabbè, non è che ci voglia. Perché il mais noi non lo mettiamo giù. No, no, neanche noi. No, qua non lo. No, qui no. Ma una volta qui c'era, sì, un po' come non una volta qui lo mettevano i miei e le campagne qui c'era, poi cioè noi lo mettevamo per darlo alle galline. Devi andare giù, Alex, più tardi? Ti hanno telefonato? No, non ancora, sono qua. E ma ti aspetteranno lungo la rampa che vai su. Vada, seduti su.